sul questo benedettissimo canale. Attenzione sul 10, K. No, ancora, sicuramente avranno le gambe sotto il tavolo qualche. Positivo, José. Tra mancata abbiamo luce. Oh, mamma mia, guarda, non parlarmene, che giornata brutta anche per me oggi, con l'acqua, il vento, guarda, con 160 quintali, non sai come mi faceva andare la barra oggi quel vento. Sì, posso immaginarlo. Ci sono stati dei momenti che in certi punti stavamo camminando a 40, perché niente, e ti arrivavano queste folate che proprio ti tentavano di buttarti fuori. Posso immaginarlo, José. Me lo posso immaginare. Purtroppo quando sono giornate così, guarda, per carità. Ma speriamo che sia vero quello che ha detto la televisione, che il vento è in attenuazione, però attenzione, io ho sentito che da sabato dovrebbero abbassare di nuovo le temperature, mi fa che. Senti, non hai guardato il televisore in quella nave di crociera, quell'onda gigantesca che ha sfondato i vetri della nave di crociera? Cappava! Quello ha finito di fare crociera, mio poveraccio, qualche. Sono morto, mi sa, due o quattro persone, per sempre. Ma io ho l'impressione che qualcosa stia succedendomi, mi vorrei sbagliare, ma ho l'impressione che la signora natura stia cominciando a riprendersi il mal tolto. Avanti vela! Positivo, ben sentito Pierpaolo e ben trovato qui sulle 10. E stavamo parlando con l'amico Palchetto di questo benedetto tempo. Ho sentito addirittura che ha messo neve in Sardegna per lunedì. Su Monte Cittorio, è stata segnalata solo su Monte Cittorio. Neve 14 metri d'altezza. Sotterra tutti, qua a Sassa è tutto pulito, tutto bianco, tutto soleggiato, cambia. Caspita, speriamo bene, mamma mia cara casa, adesso basta veramente. Purtroppo si sta girando il tempo, siamo lì, è proprio l'essere umano che ha rovinato, e sta continuando a rovinare il pianeta. Di positivo l'amico Falchetto, è proprio quello che stavo dicendo, perché adesso lasciamo perdere quello che sta succedendo qui, è quello che sta succedendo fuori, terremoti, maremoti e tanto bene. Io, come ho detto poco fa, e non per essere ripetitivo, ho l'impressione che la signora se lo stia riprendendo con gli interessi, quello che gli hanno tolto. Quella, guarda, il giorno tariffa del patatrac è quella di Curaini. No, sai cosa è? Che in antichità, quando venivano queste cose, i palazzi e le case così come ci sono adesso non c'erano. Ma proprio pochi giorni fa l'Istituto Luce ha mandato proprio un filmato che a cavallo del marzo proprio del 1943 c'è stato un terremoto che non è indifferente. E non bastava che c'era la guerra e anche il terremoto è passato addirittura tra la Grecia e nella Grecia, che era già abbastanza trapassata, e ha passato un bel terremoto proprio in corso di dittatura. E quindi beh, che le cose ci sono sempre state. Tappa di positivo, avanti Falchetto. Ma guarda, io alle volte rimango anche stupito, perché troppi cambiamenti, troppi, è una cosa che non si crede, guarda. Beh, i cambiamenti ti posso dare ragione, quindi sì, perché è impensabile, dai, che una persona si possa costruire la casa a 20 metri da un fiume, senza andare molto lontano, basta prendere la zona da Olbia sino a Coso, San Teodoro e tutte quelle zone lì, l'allagamento che c'è stato quest'inverno che ha distrutto mezzo mondo, quindi non è che poi possa andare a piangere a destra o a sinistra perché non è più la casa, lì ci vorrebbe un mea culpa, perché arrivato a un certo punto anche devi anche rispettare l'assestamento idrogeologico che può avere una zona. Anche a me sarebbe piaciuto uscire di casa in costume e tuffarmi in acqua senza dover fare 15 km per andare, 15 km per tornare. Però se certe cose non si possono fare, non le devi fare né qualche. Positivo, è vero, positivo. Lì ci sono tante case abusive costruite in maniera, diciamo, con disattenzione, perché non puoi tu costruirmi una casa a due passi dal fiume, acqua che sia, no, non esiste proprio, voglio dire. Addirittura, secondo me, a meno che io dico, secondo quello che ricorda la mia testa, a rovinare anche tutte quelle cose lì è stato anche gran parte il condono edilizio. Quello sì, prendiamo un'area che proprio lì a costruire bisogna essere pazzi, no? Per fortuna il Vesuvio non fa più, non è il giorno che si sveglia qua, però prendete proprio quell'area lì sotto il Vesuvio, a poca distanza dalla bocca del Dolcis, che hanno costruito quasi un intero villaggio che dovrà essere abbattuto per alcuni anni, con la polemica così appunto che dovrà essere abbattuto. Prendete in quella zona lì e vedete un poco l'uomo dove è andato a costruire un intero villaggio, dove assolutamente non si potrebbe né geologicamente, ed è impensabile che delle persone vadano a vivere lì sotto il pericolo costante. Quindi di conseguenza io sono d'accordo che la casa sì, ma fatta almeno dove è possibile, non a ridosso di queste cose. E cappa di positivo, allora stiamo parlando tutte e tre la stessa lingua, anche perché è inutile che per avere la vita bella, avere la casa in un punto, diciamo, in prendere la faccia cadere sul cucuzzo, la trapiombo sul pezzo di roccia, quando poi con l'andare del tempo, e vuoi la corrosione, e vuoi le piogge, e vuoi il vento, e vuoi tutto l'altro, ci scendo io e lei costruendo di roccia, oppure come quello, no, che se la fa proprio, ma fate la 50 metri, a 120 da fiume, ma tu devi vedere lì a Buglioni, Pierpa, cosa tutto è successo, San Terrore, tutta quella zona lì, non esiste più niente, tu devi vedere il fiume, quanto è esondato, e cosa tutto si è portato via, però adesso sono i primi che stanno piangendo e vogliono le cose dalla regione per stato di calamità naturale, quando si è andato più a costruire abusivamente, diciamo, sul letto del fiume. Guarda, allora ti faccio un altro esempio, c'è una piccola frasioncina, era prima, che sicuramente tu andando a te, io non so, l'avrai sentita, però dalla parte di Vitalba, salendo verso Tisiena, quella frasioncina lì, e quella frasioncina era già in antichità spaccata in due, che ci passa il fiume Corias che va fin sotto Agnes, no? A alle casse dello Stato per chiedere i risarcimenti. Ma questi soldi da dove devono venire fuori? Allora è giusto quello che dice Pierpaolo, no? Che alla busta paga carte fregato in pieno. Positivo, ma si conferma. Riprendi Pierpaolo. E guarda che non andiamo lontani, anche Giuseppe, lo sai, adesso non mi ricordo cos'è, 3 anni fa, a Cagliari che cosa è successo lì, che cosa volevano? Volevano l'intervento della regione, e quale intervento volevano? Perché la regione gli ha risposto, lì, su 30 case in quella zona, 29 non dovrebbero esistere neanche, perché non ci sono neanche sulla carta, e però hai visto, hanno fatto le proteste, buone palle, e cosa le hanno fatto? Le hanno... Gli hanno risarciti abbastanza anche congruo, ma volevano il mondo, volevano addirittura la casa nuova. Ma cioè, come si può aspirare a togliere soldi da altri per fare la casa a te che te la sei fatta abusiva? E altri che invece stanno pagando, che pagano il mondo per aver fatto tutto regolare con la sua battaglia. Io sono uno di quelli, io purtroppo appartengo a quella categoria lì, facendo le corna, non vedo succedere una minima cosa che non riesci a pagare una rata già sta venendo qua l'ufficiale giudiziario. Però come è successo, come dici tu, no, se non mi ricordo male, era Villanova Trisai di Pierpaolo, e lì hanno trovato una macchina sul tetto di una casa. Ma in confronto a noi sono pugno di mosche. Ma è possibile, Carlo, io dico Vito, che il popolo italiano sia così deficiente? Ma quando mai fare una spedizione con, ripeto, siamo un esercito contro un pugno di mosche e a buttarci nel cuore di lui a calci in culo? Invece noi siamo stupidi e votiamo, facciamo quello, facciamo l'altro, esatto, loro stanno facendo, fanno e disparano, fanno sempre loro, hanno sempre ragione loro, si fanno gli aumenti per i cavoli loro, e il popolo rimane povero, anzi più povero del popolo, e vabbè, è tutto, guarda, un mangia mangia che non se ne viene bene a dire, guarda. Io mi ricordo proprio al primo acchito dell'euro, proprio le prime settimane, a me era scappata una frase, perché già lì avevo capito l'inghippo, perché andavi con le lire a fare la spesa e qualcosa portavi a casa, pagavi con l'euro e ne portavi la metà. Vi ricordate quando mettevano quelle locandine nella cassetta delle lettere, no? Tipo della Sisa, di Multinedio, di questi negozi che facevano quelle offerte, no? E tutto che ne sono a 1000 lire, o tutto a 500 lire, io mi ricordo cadde quelle locandine che erano uno spettacolo a vedersi, anche se poi in fondo in fondo ti fregavano lo stesso, perché con la scusa che andavi lì a spendere le 500, le 1000 lire, ti riempivi il carrello, quindi sempre un pacco di soldi andavi a spendere. Quello che rompe più le scatole, che adesso in queste locandine, è tutto a 1 euro, e sono contenti. Attento da contrapparte Zebra che fa chiamata KK. Avanti Zebra. Che sa che è Zebra. Ciao Alessandro. Disgraziato, anche il mio neonativo conosce che. E se non te, se qualcuno non te lo ruba, adesso tu c'hai quel nome attivo. Zebra Alessandro, buonasera, ben ascoltato. Cava, cava, come sta arrivando la radio? Puzzolente sta uscendo, o come la senti? Una radiolina che sembra radio messicana, cazzo. No, ti ascolto bene, sono un po' nasina e basta, però ti ascolto bene. Guarda, attaccando un po' di più il microfono dalla bocca, invece, se è sempre nasina rimane così. Si abbassa un po' di più, però è sempre nasina. Arriva delle volte a cesura. E che sono nasina, ne so. Sta salendo al ponte nuovo, lì, facendo un giretto, vediamo un po' se trovo qualcosa da... da vedere. Tanto, ho chiuso adesso il negozio. Faccio un giro di solito la sera e da poi rientro a casa. KK, buona passeggiata allora. Provo di trovarvi nel solito posto. Ma va bene, vuol dire che siete a casa. No, siamo a casa adesso, siamo tutti in abitazione. C'è il Marchetto, che non so se lo ascolti. Poi c'è Giuseppe, Antonio Popolo e io. Io ne ho più uno ancora non è entrato. No, io penso di ascoltare a tutti, perché ho l'antenna un po' altina adesso, attaccata sulla cappotta, con la base magnetica, ma io penso che le ascolti, vabbè, fai girarvi lì. Attento Debra, buonasera, ben sentito. Vagaba, tu mi stai rompendo tutto qua, credo che... Avanti Giuseppe per i saluti a Debra. Cappa di positivo, ben sentito Alessandro, e ben trovato qua sul 10, dai, da parte di Giuseppe, cappa. Vagava, tu forte e stupendamente chiara la modulazione, non so che apparecchio c'hai, ma mi sembra di aver capito un Alan 48. 48 plus, così è. K di positivo, 48 plus multi, ed è una meraviglia questo giocattolino. Facciano uguale, ce l'ho un po' modificato io, vabbè, comunque lo so che è una meraviglia, sembra così, a me non è che non mi piacerebbe, è la verità, infatti devo prendere in mare e cose, ma alla fin fine me lo sono messo qua in macchina, e c'ho quello lì. K di positivo, mi hai fatto veramente bene. E avanti Antonio Bombolo per i saluti a Zebra, K. Papà, salutoni Zebra. La popolina, la modulazione tra te e Papotoglio non si sa che ha segni, né tu né tu, uguale, la modulazione è uguale, anche il timbro di voce. Caparroccia, perché adesso sono passato qua, dai, adesso prendo dalla mia stazione, cambio. Un attimino che io faccio un secondo anche di fianco, e mi chiamo, mi sta chiamando, e mi avvicino un secondo, dai. E faccio sentire fra un attimo di secondo, via. Cappa, Zebra, a dopo se coincide, avanti Giove. Attenzione signori, vi siete sovramodulati, Cappa. Ho detto salutoni a Zebra, a dopo se coincide. Traficate, devo fare di più, la toccate o la fuga. scaricare il tutto. Ah, di positivo, ma fa sollevare il ribaltabile bombolo e si fa anche prima. Quasi il tutto. E tanto lo devono tagliare il vetro. Ma io lo ho squadrato però. E il papà, tirando sul ribaltabile come viene, tipo un diciamo un taglio fantasia. Taglio mosaico. K di positivo. Poi basta prendere i pezzettini con l'altra che riesco ad attaccare, cosa ci vuole? Non ci vuole niente, tanto non ne fa volume lì, che fa il vetro, quando si passa, mamma mia. Sempre che non si arricchisce anche sfondo la vetta, la ricettiva, e tu ne voglia ne fate. E quello, grazie a Dio, anche di quello c'è lì, Pierpa. Già va bene, già va bene. Quello più silenzio del testo mi fumi. Anzi, quello, una lacera di quello appeso, A papà. Ma, poi ho visto che ha tentato anche il fondamento, anche perché magari non ce la fa il martello. Io non ne sono sicuro, adesso poco me l'ha facito, non so. Però ho visto che quando l'hanno buttato giù, in banca adesso c'è entrato nel fuorisale che ha le spille. Ecco, quello che stanno mettendo in banca ultimamente il 36-38R, tu figurati che è una bestia quel cristallo lì, manco la gallonata a casa riesce a passarlo. Ma cosa cazzo non taglia questa cosa? Macchinario ad acqua con disco di allargato. Aiuto, aiuto, c'è la portante, 11 alfa, 11 alfa. Attenzione, attenzione, se sul 45 lui non può arrivare, per me va bene, la papa. Dov'è 11 alfa? Le papa, sul 45 ti becca. Ma che? Tu 11 alfa, io. Ronzo di casino, ce l'andiamo all'11 alfa. Vabbè. Giuseppe. Attento, bombolo, bombolo, se vai copiando, cambio. Pacchetto. Giuseppe. Io mi so. Io pure. Ma che ti sento, ci siamo tutti. Appa, appa, ci senti? Ci senti a tu? Torio. Dimmi, dimmi, fa che c'è proprio che sta slatterando. Ho detto, ma c'è anche Giuseppe, sì. Positivo, avanti Giuseppe, riprendi già per bombo. Oh, oh, eccomi qua. Appa. Mi avete fatto staccare l'antenna, Cassio, e sono qui, col Magnum. No, Giuseppe, sono stato un attimo, sono 10, a prenderlo in giro, dai, vieni su, 12 alfa, dai, tronzetti, hai detto, disegni di colori. Ma almeno lo sa che cos'è l'11 alfa, Ghigliù, che ci ha handicappato? Sì, sono sale, ma, no, bello, no, è meglio che non lo dica. K, non avrà pensato che un pacchetto di sigarette, no? No, ha pensato che una sorella quando si ferma il palo. Ah, cava, cava. Perché la sorella si chiude l'intente, K, è tutto che si apre argomentandomi. Ma diciamo che direttamente non è neanche la sorella, dai. Della stessa schianica, ma insomma per un chiaramento dai. Mi viene, muy bien, un bel casotto lì. Ecco, bravo, vedo che hai molto intuito, Giuseppe, proprio così. Cappa di positivo, cappa di positivo. E Falchetto. Dimmi Giuseppe. Da lì su che cosa si vede? Un miscuglio, un miscuglio. Tutto un ciaramento. Certo, certamente che così è tutto un casotto, per carità. sede. Ma, ovvero? Eia. E come mai? Per vento. Troncata? Eia. Ebbene, non è aggiustata? No, negativo. Però beh, non è tratto, penso non è aggiustato, non ancora. Cavolo, mi dispiace. Mi dispiace sinceramente. Anche a me dispiace, là. Purtroppo dispiace a tutti quando succedono queste cose, ma non è nella prima né nell'ultima che ho visto spezzate l'antenna, E perché chi è l'altro? Nella zona dove sono io, una tutta bella piegata, ma piegata, Ma te ne vai a positivo. E chi c'è vicino a te? Vicino a me c'è Spaviero e altre persone, capito che ci sono delle antenne lì, una addirittura tutta piegata, sembra un serpente. Chi c'è vicino a te? Sparviero. Mi copiato. Chi a te? E dopo sto lavorando io. Ah, ecco. Non vicino a me, dove sto lavorando io. Ah, no, io ho capito, vicino a te adesso in questo momento. Ah, negativo, no. Manca fare danni. Kappa. È forte la stanotte, è forte, un bel. Passava le raffiche, leva di vento. Ma non ha già misero. Caspita. Vabbè, succede, che se lo fa? Ma spero che ci ripristino subito, Speriamo. Purtroppo era da paura veramente, guarda. Come ha reagito la tua, Giuseppe? Ma guarda, io... Pierpa, io ero coricato e ti posso dire una cosa che un po' l'ho pensata, però ha già detto, avanzo fatti due. Dico, come l'hai vista stamattina? Dritta. Va bene. Tanto quella, la pressione ce la devono avere per forza, se no appunto si spezza. Va bene, sono cose che succedono, Vabbè, ma pensa anche quella là che è caduta quanto tempo era già su quel tetto. Appunto, cadono anche per l'usura, L'usura gli anni sono tanti, poi Giuseppe stanotte il vento andava da una parte all'altra, erano raffiche, e sai quel movimento che tira da una parte e tira dall'altra, non è una cosa buona, Tu sai che un pezzo di ferro, un pezzo d'alluminio, tira da una parte e tira dall'altra, inizia a indebolire, più anche il tempo, non sai cosa succede. Kappa, che lo spezzi per fa? Purtroppo quelle sono cose che tante possono succedere. Io sinceramente oggi guardando, circolando, più che altro ho visto antenne anche televisive, ci sarà un po' di lavoro per gli antennisti, per quelli che fanno queste cose. Ne ho visto un bel po' a te rovesciate, piegate e via dicendo. Quindi c'è un po' di lavoro, Kappa, io stamattina sai che cosa ho fatto, Pierpa, prima di uscire di casa? Cosa? Ho fatto una cappatina sull'1 e sul 40 e ho dato uno sguardo, sempre 1 e 1 fisse. Kappa, nuovo, dai. E nuovo si è ancora da bene, poi con i 4 tiranti non fa niente. Però quando c'hanno una certa usura lì sono... un pochettino inizia un po' a farti pensare, ma mediamente comunque un'antenna così, una ventina d'anni, 25 anni, c'è da stare tranquilli, E Kappa, tu figurati che io su nella mia ho messo tutte e due le cravatte per gli ancoraggi e niente, gli ho fatto i tiraggi proprio a stella, mi pierpa. Da che parte tira il vento lì è ancorata? No, andiamo bene così. No, quello che è preoccupante è lo stilo centrale, perché è quello che riflette, che deve riflettere logicamente, e l'usura, al capito, di quello lì è importante. E poi a un certo periodo d'orario iniziano a cadere anche i laterali, e poi lo stilo centrale, qualche fine, fine che si spezza. Dimmi. Ah, Giovanni, la freccia già l'hai conosciuto in frequenza. Capa. Quello c'ha l'antenna buttata sul tetto. Di fronte Giovanni la freccia c'è un amico mio, si chiama Salvatore. Quello idem, l'antenna bloccata sul tetto. Ragazzi, vai tu. Che sono lì per uscire tra i tassi, sta trattando il numero. Vabbè. Che già sono lì senza entrare, sì. E a parte quello, ma le antenne sono tutte e due piegate. Capa, l'altra volta, qualche mese fa, c'è stata quella di un altro cipili su un semaforo, che addirittura il fulmine l'ha scoppiata. Insomma, un periodo brutto, proprio. E sono sempre delle cose che dispiacciono, però succede, la natura è così. Purtroppo sì, purtroppo si conferma. Ok, riprendi da Giuseppe. Va bene, Pache. Ma comunque qui in Sardegna noi siamo soggetti al vento. Certo che sì, noi abbiamo il maestrale che domina. Infatti, quando succedono queste cose, insomma, ieri notte era una cosa a raffiche proprio. Comunque, volevo dire una cosa, che se l'antenna è ancorata bene, appunto come ha messo tu le cravate e le cose, e le staffe sono buone e tutto quanto, l'importante è che tenga quello, perché la parte dove fa più danno se cade, è quella, l'importante è che non faccia il danno, perché quello si è ancorato, può volare un tirante, ma la gente al regolo non fa almeno danno, così ti salvi dai danni. Poi se cade quello stilo centrale leggerissimo non provoca danni di niente, dai. E infatti sì, quello lì già è alluminio ed è roba leggera. Anzi, è fortunato chi riesce a metterla anche su un bel terrazzo, anche se il palazzo è alto, se si corica sul terrazzo e via. Infatti, io adesso non so come. Ma Fachetto, com'è caduta quella antenna? Si è spezzata. Ma si è spezzata da dove? Diciamo dalla bracciale radiale, dai, più o meno. Caspita, dalla carica! Positivo. Porca miseria! Proprio spezzata, proprio là spezzata, proprio si vede che è tutta quanta istruzione. Se si è spezzata i radiali, si è spezzata la carica. Dalla carica non si può manco recuperare. Manco la recuperi quella. Perché se si spezza dal tubo oppure dal radiale, si può rimediare la banda radiale dallo stilo centrale. Ma se si è spezzata la carica, non recuperi più, Diavolina. In pratica dove c'è il vetro resina, così quella è la carica, io al limite ce ne ho una, la mando a 5 per dire, ce l'ho una di quelle cariche lì, capito? Ma però ci vogliono, devi fare la trapanare dove ci vanno i radiali, capito? E poi il resto è buona, e la carica e la molla ci vuole, dai, poi il resto è buono. Beh, se c'è la carica buona, allora sì. No, la parte più proprio interessante sulle rotte. sicuramente loro usurano il tempo anche spezzarsi da lì. Il vento, insomma, perché poi sotto di quello c'era l'alluminio stesso, si è troncato le tive e usurano il tempo. È fregato, spezzato da lì non serve più, No, no, infatti deve sostituire senz'altro perché molto difficile metterla a posto, molto molto difficile, è da buttare e sostituire la nuova. A meno che non trovi da qualcuno appunto una carica e può mettere di nuovo i radiali, però un po' di radiali che già si trovano, costano anche poco, esistono anche, mi pare che ho sentito che qualcuno ce li abbia. Se trovo la carica, perché se si è rotta la linea non si vede più. No, ripeto, la carica ce l'ho io se la vuole, però si deve rifare i forellini, io ho la carica della Mantova 5, si deve rifare i forellini per i radiali, ovvi, capito? Tutto qua, se la vuole io gliela do, e la molla si metterà quella che c'è lui, io la molla non le ho. Prova a dirlo. E infatti ci passo domani quando esco dal lavoro, da Manse, così vediamo un po' cosa decide, perché lui dice che stava parlando e il televisore andava in tilt e vuol dire che stava iniziando a spezzare, poi magari col vento e coso e gliela spezzata del tutto. No, se sto parlando era già fuori la rosmetria, vuol dire che era già truccata, era fuori la rosmetria. E poi forse come trattare cosa la televisione, perché è trattato in stazione lì. Infatti. Domani ci passo io. E così se riesce a mettersela a posto, si piazza solo, se non gli ha fatto danno all'antenna, si piazza, capito? Qualche tubo glielo posso anche dare, c'è anche qualche tubo, se lo mette a posto e si piazza quella provvisoriamente, poi si vedrà. Sì, perché cadendo, perché se gli è caduta quella, la sinistra è rimasta intatta, sia la molla che lo stilo centrale. Bisogna vedere come è caduto. Se riesce a recuperare quelle due cose, quella carica che si può mettere su quello stilo. Però bisogna vedere se cadendo come è caduta, se non gli abbia rovinato anche quello. Se gli ha rovinato anche quello, va tutto nuovo. Infatti, adesso vediamo, dai. Andiamo un po'. Ok, riprendi tu e qua e fai girare. Ecco, ma devo recuperare con qualche antenna provvisoria, almeno a modulare. Vabbè. Poi non lo so, io l'ho sentito anche dicendo, non ho ancora avuto modo di parlarci, ma vabbè, ci sentiremo. Riprendi Giuseppe. Io sarei del parere invece di mettere direttamente tutto nuovo, perché secondo me non ha senso fare due volte il lavoro. Quello già è vero, è nuovo direttamente, ma mi pare che Gianluca ce l'aveva il progetto di metterla nuova, quindi non lo so, la metterà nuova sicuramente. Poi non lo so se ne ha qualche come fare, boh. Adesso non mi ricordo se era lui che mi stava dicendo che ne aveva un'altra, non me lo ricordo, mi pare una cosa del genere, e comunque un bel numero glielo chiedo. Cappa di positivo, figurati che io oggi ci sono passato lì, e proprio sulla bretellina, e niente, forse talmente ero in fretta e anche appena di stanchezza, sempre ce lo buttavo l'occhio lì, e niente, stasera proprio non mi è passato manco per l'anticamera della testa di girare lo sguardo. No, io non ci sono passato, ho sentito da Falchetto, ho sentito, non ci sono neanche passato a vedere, la verità. Cappa, presumo che non sia la sola che ha risentito dal vento di ieri notte. Ti sto dicendo, Giuseppe, che girando per Sassari ho visto un bel di antenne televisive a terra. Qua ce n'era una lì in via Oriani, che c'è un palo, che c'è un palazzo più basso, vuol fare che sia di tre piani, la c'è un palazzo di fronte, cioè va una mega antenna con un tubo alto per superare quel palazzo. E la civica che era appicciata all'arco, stamattina, dove si era piegata, ma proprio all'arco era. Figurati la potenza che ha il vento, me. Eppure, ma, vabbè, quelli che hanno le antenne della televisione hanno quei tubi, quei pali di antenna televisiva che ne sono, insomma, sottili, quei pali tirati. C'erano i tiranti, però, invece che erano tiranti nel cavo, perché infatti a me non mi sembravano molto... Ogni volta che passavo, avevo messo tubo lungo lungo, diceva, ma boh, chi si tira, ti voleva tirare i fini, chissà cosa mi ragioni di dire. E infatti già si è visto il risultato. E ci voleva almeno dei tiranti, visto che era un tubo del cavo, ci voleva almeno dei tiranti siri. Infatti stamattina ho visto una piegata a uso arco, ha detto che il tuo ritorno non sarebbe riuscito a fare di meglio. Figurati, intanto non ha soffiato puzzinoso mi tutta Cantaranotte e tutto Romanzano, se no ieri, quando ha cominciato a metà mattina. No, Giuseppe, ti posso garantire che io ero in piedi e guarda, passava, era a raffiche, era fortissimo, vento e l'acqua assieme. Passava a raffiche di vento che io le toccavo. Era una cosa veramente forte, c'era qua il palo che ci stava in corso, si muoveva da una parte all'altra, quando si passava la raffica di vento, era fortissimo stanotte. Eh sì, già l'ho sentito anch'io Pierpa, già l'ho sentito, mannaggia. Ma io ho guardato anche la finestra, ho controllato la mia, ti dico che era proprio affacciata la finestra della camera dove dormo io, e si puntava la mia, che era una bellezza, andava da una parte all'altra. Cappa, io non ho avuto il coso di, tanto anche se andavo giù a controllarla per fa, che cosa potevo fare lì? Potevo solo guardarla e magari mettermi in testa altri mille problemi. Ho preferito, ho detto, speriamo in bene, e così è stato. No, io dalla porta finestra la mia ce la vedo, ce l'ho quasi davanti, che era proprio da questa parte e andava, perché già, boh, il Tiracaffa alla Pannina non si, magari si potrebbe, oddio, troncare, ma comunque è una puntella da 6 centimetri, non lo so cosa verrà male a picciarla, E poi c'è anche i tiranti, quelli devono lavorare alla grande. No, tirandi non è la mia, no, è appoggiata su i 2 metri, c'è 2 metri di palo, io ho bisogno di tirarti. Sì, andavo da una parte all'altra, però aspettare quella staffa è a quanto è possibile, mica farlo pieno, la si va a potrare da 6 centimetri e me. Io sarei curioso di vedere quella che c'è su in via Umberto Nobile, sull'attico, che quel palazzo dà proprio di fronte allo scorrimento veloce, no? Dove c'è Sassari 2, lì c'è una bella mantova ed è piazzata su 2 tiranti, proprio agganciata alla cabina dell'ascensore, e cioè 2 tiranti, 2 staffe, no? Ed è bella in alto, però non ha manco un tirante con l'antenna lì. Te lo scrivo io perché non ha manco un tirante, perché quell'antenna, cioè quel tubo che vedi, è in acciaio inox. Allora. Oh, buonasera, signor Natalino, e beh. Adesso fuori, chi c'è qua là che sono appena acceso? C'è Giuseppe Tornado, poi c'è Falchetto, Antonio Bobo e sottoscritto, caro che è. Caro che è, già, non ci fanno sentire. Ma guarda, io non l'ho sentito per niente. Cioè, ci siamo sentiti io, gli ho detto ci sentiamo stasera, però non è entrato. Salutamente ti buonasera, dai. Ciao Natalina, avanti, Giuseppe per i saluti. K, buonasera Natalino, e ben sentito, avanti bombolo. Buonasera Natalino, sono bene e ben sentito. Qui si parlava di vento e di vento cattivo. Cosa Giuseppe? Stavo dicendo Natalì che qui stavamo parlando del vento di ieri notte alla grande. Non capa. E Natalì, messa a posto la vettura? Io ero fuori, ero. Sono rientrato adesso. Gappa, gappa, sono contento. Molto ti ha preso. E io un bel blocco che vi dà danno. Mannaggia la marina. Riprendi, mi ha fatto. Gappa, gappa. Ma avete fatto, stavo... Ho bevuto in fretta per riprendere. Riprendete voi, che mi riprendo io adesso. Gappa, riprendi Giuseppe. Cappa di positivo, Nacchi, stavamo facendo affogare il buon vela, adesso bisogna vedere se era l'acqua o se era lo yogurt, mannaggia. No, no, acqua, acqua, mi sto ribevendo, per inghiottire bene. Cappa di positivo, io faccio 2 secondi di bianco e vado a guardare che ora si è fatta, signori, perché il sottoscritto domattina, Chito Chito, deve mettere in moto i cavallini. 1:26. Anch'io, 21:26, Cappa. Brava. Brava, due, una pallina, poco, sì, alla grande. Come? La pallina, alla grande, a poco. Una cosa, l'antenna? Ma revisi? Se sto parlando con voi penso che ti vada bene. Ma Gappa, è servita quella situazione là, te lo ricordi? Eia, già l'hai visto quanti mi ha riascicato, lo dubbio, mi ha riascicato a moletta che... Poi la tua ha cacciato la fumaiola. Cacchiate nella fumaiola, di così così no, perché è piccola, se il palo va lei va sempre. Lo sappiamo, il palchetto ce l'ha piccola, io che ce l'ho grossa. Morello. L'antenna mica sei compreso, cazzo di maledio su questo Antonio, sì, tu. Carissimo. Carissimo palchetto. Il palo rosso c'hai, Natalino? L'antenna, ho detto c'ho l'antenna grossa io. Ah, tu c'hai l'antenna rossa, ma è grossa anche quella lì. Di coso mi è un tubo, Ah, sì. Perché tu c'ha un bazooka? Zucca quella di Falchetto, Ma io mi sto curvendo un poco di una casinola di Lourdes, Falchetto, che fa bene. Che una signora mi ha buttato giù stasera, adesso mi sto bevendo un po' di acqua di un'altra signora di Lourdes. Adesso mi sto a dire il rosario. Ringraziate. Falchetto si chiama Thunder. Come? La tua si chiama Thunder. Eia. Sirio. Eh? Della Sirio è quella. La di Rogero. Ma, vabbè. Con Gianni in quella pizzeria di Porto Torres. Con Giuseppe c'era andato, con Gianni. Non ti ho capito, Natale, quella... In quella pizzeria di Porto Torres, e tu eri con Gianni o Giuseppe è andato? Non lo so io con me, che sì, com'è andato da parecchio però. No, da poco, in quella di Porto Torres, sì. No, da poco non era con me allora. Non so, mi pare che c'è andata con la sorella, Con Giuseppe mi sembra che sia andato, adesso quando rientra Giuseppe glielo chiedi a... particolari. No, non ti dico nulla, già te lo dico di persona. No, sto dicendo così così o così? E io così e poi mi. Certo, mi ha telefonato uno stasera a vedere se entrava il baracchino, io ero a Porto Torres, se stavo mangiando quella persona. Io una persona mi ha chiamato e ho detto no guarda sono in ristorante e sono fuori Sassari anche. Gli ho cominciato giocate che la magna? Cosa ne gioco? Io non aggiungo neanche niente, io ho visto questa montagna di roba messa lì e pensavo ci mangiava tutto. Che tu ci ti lavagni? Ho perso tutto, la buccia l'avevo, e mangio la carne. E quello volevo che tutti mi guardavano. Andiamo a dire. Sbalorditi, io già sono arrivato impassibile. Ma la colpa è la tua allora, Impassibile. Ehi, guarda se mi è accappata la voce della gente a dir ciao. No, a me i nocchi, mi ha reso una pizza con la gorgonzola e mi ha mandato il coperto. Infatti, mi ha rivitato prima a me che a voi. Perché tu sei sotto cazzardo, sì. Io ho dimenticato che la polizia non mi ha mai reso oggi. No, perché a me non mi fa così. Se può provare a fare, mi piacciono quegli ingredienti lì, quella gorgonzola, quattro formaggi, tonno e cipolle, la pizza mi piace. Poi una qualcun'altra così, ma non altre, io non mangio, non mi piace questo di mare. Giuseppe, dimmi che fa. Adesso capisco anche, adesso che sono arrivato perché il cameriere mi stava guardando male e stava cercando sotto il tavolo, sotto la voce, come se era dei geni. Chi se la dei geni Ravuccia? Sa cosa ha pensato, poverino, E niente, tu gli dovevi dire quando stavi andando via, e quella la uso per pescare io. No, il fatto è che mi ha chiesto se era stata di mio gusto. Ho detto, insomma, un po' più cotta voleva perché era un po' durina. E mi sono baritato male. E cappa di positivo. E tu figurati poi quando sentivano quelle crunk, crunk, crunk, dici, ma chi sto cosa in magnete, la pizza con le battatine e poi? Ai, ai, ai, ma la colpa è di due persone. Che non mi hanno detto niente, per quello che non mi è piaciuta. Antonino è pisciato le risate. E poi frutto. Ho mangiato, dove c'è tutto, è arrivato. Ui, ui, ui. Dove sei? Eccomi qua, io stavo parlando e facendo. Facendo e parlando perché Veronica ha fatto danno, però sono riuscito a sistemarli, era dai. Cappa di noce. Ha capottato con la moto e aveva fatto storta la forcella, adesso gliel'ho sistemata. Vai con tu l'impennata e sei capottata. Veronica, ma sciotta! Adesso è dentro, infatti gli ho detto, se fai la brava, ti prendi il libro, ti leggi i cartoni animati, poi te li metto anche alla televisione e io te la sistemo, pure se no che esetta mi pare si facendo il raduto. Giuseppe, ma ti ha scuolto, non so leggere. Beh, leggere no, si guarda le figure più che altro, però dici questa è la I, la H e coso, ma non leggere no, è piccolina, ha 3 anni. Ecco, perché tu hai detto che legge il cartone animato, dici, mi incastra. No, si guarda le figure, poi se li colora, c'ha il coso, no, il... è come un libro di cartoni animati, no? C'è una pagina dove è colorata e l'altra è in bianco. Si prende i pennarelli, lei guarda come sono nella pagina a fianco e se li ricopia. Ecco, pochino l'aiuta almeno a tenerlo occupata, se no gatte che c'ha a casa, me ne butta giù la casa ogni volta. Bene, bisogna cacciarvite in giro. Quella è la passione mia, ma sto lì. Chi se ne darà, è troppo come mi ripiglia la baracchina da mano. Giuseppe, non sai cosa mi ha fatto Antonio quando era piccolo? Dimmi. Mi svoltava gli apparecchi. Va bene, e controllava se erano modificati? E poi gli piaceva far risaltare anche in aria. Cappa. Invertiva i fili, la tua volta mi ha fatto saltare in aria lo specchio. L'uomo ho messo in vita lo specchio gigante. Mi ha invertito, tra l'altro perché funzionava anche a 12 volts, no? Mi ha invertito con la 220, mi ha messo nella 220 a 12 volts. Cazzo, sono andato lì, boom, mi ha depremicato tutto. E su che si va coi fuochi artificiali? Il giorno stavo per attaccare la 220 ai piedi. Ma funziona anche se tu ne attacchi uno al piede e uno all'orecchio, Io per questo mi sono l'orecchio. Il giorno c'era Giuseppe. Una volta, ma sai cosa facevo? Smontavo quei motorini piccolini, da poi cosa faceva io? Io matto così per vedere se girava più di più, prendo quelli, come si chiamano, quei fili di quella radio di prima, li mettevo dentro il coso, dentro le spinette, che entrava in fila, andava ad attaccare la spina, lo smontavo. Immaginare la bambola assassina. La bambola, perché poi a mezzo di plastica, a mezzo di peggio, finisci di un fumo dal cuore. Cazzo, io la taglio tutto per vedere lì questa cosa, perché no, facciamo anche un verso del piatto. Allora, e poi chiude questa cosa, non c'è la cantata. Che si è preso quando ha visto quella bambola partire a 200 all'ora dalla finestra. A 200? Mi senti, sto correndo che era una cosa impazzita, ti sto vedendo che ci trovo, c'è presente quei petardoni che iniziano a saltare la porta all'arco, no, i petardoni, quelle mitragliette che ti sono tutti i pacchi, così parli anche a mamma e ce ne sentite. Poveraccia però, e l'autopsia voi gliel'avete fatta? Loro contate apposta. Pretendevano che io avessi ispirato mio figlio e che avessero una sospensione di 5 giorni, invece no, gli ha dato male perché soccorso non fa, però le signorine maestre gli ha fatto bere il caffè con la pipì. Era pipì. Giuse gli ha detto, poi non so come gli ha fatto le maestre, no? Dice, buono il caffè, sì, bravo tu, buono, buono il caffè. Peccato che la posa dell'acqua ci ho pisciato dentro. Cazzo, avrei voluto vedere la faccia di quelle lì. Che malattia, mal di stomaco. Cazzo, me lo posso immaginare. Cazzo, il cappuccino gli hai fatto, Antonio. Diventava mia colore di mia maniera. Adesso mi è passato un po', ma mi combinava di tutti i rigurori. Oh, Anto. Dimmi. Ho un magnum qui sulla scrivania. E se te lo lascio per vedere se funziona a 220. Ma non le faccio più queste cose. Non le faccio più, Giuseppe. Dimmi, Pietà. Adesso dimmi tu, chi è? Chi è che, insomma, la scuola non ha messo una di quelle puntine piccoline piccoline alla maestra, tutti quanti, no? Cappa. Antonio, no? Rapporci un punzone. Lucciolo da Delfi. Azzarola. Un giorno stesso stavo giocando così, metto il chiodo per terra, si siede mia sorella, trac! Che cazzo era fatto, eh? Un assassino da Gesù! Cazzo, un chiodo da Rizzi, la maestra gli ha conficcato là sotto la sedia, proprio ha sciampato la candela e c'è la foto sotto, un chiodo da Rizzi, non una montina, un chiodo! E non ti hanno bruciato se mi sono ritirato. No! Figurati tu! Guarda che si può dire che non la tua tavola in carinaria. Sì, la maestra gli ha attaccato, non so che cosa abbia combinato. La maestra è andata a accendere la stufetta, andata per incatenare, era corta. E la stufetta era ancora normalmente sinistra. Ha cacciato le mie maldicine. Antonio terrorista. Ma lì, buongiorno stesso. Gli ho bloccato la ventolina, gli ho bloccato, si sono accese le resistenze, ha cominciato a scivolare. Era, adesso ce la vediamo, la prima era triste, credo si chiamava, era il terrore della scuola. Quando è uscito da quella scuola ci sono stati festeggiamenti. Essere ubriache 3 giorni di festa, di fila. Qual era quel maestro? Che fermati 5 benedetti, altro che ti chiamava. Non c'è mai fatto di musica, ma sono fiero. Gioia. Sì, ne ho combinato di cazzate. Ah, adesso non le faccio più. Sto per la sera. Deve essere no, è andato la rossa, è andata a decidere che c'era la rossa. Mariuolo, mi, il buon bombolo. Meno male che adesso si è calmato, a romanco visto. Beh, signori, io adesso vi saluto. Domattina devo fare la levataccia, mannaggia. E niente, dai, e ce la riascoltiamo con calma domani, tanto domani è venerdì, quindi un pochino di più ci si può anche trattenere. Nathalie, buonanotte, ci sentiamo presto. Bombolo, Pierpaolo e Falchetto, 144 da parte mia, e buon inizio di giornata e di trabacco a tutti voi per domani. Ciao, ciao da parte di Giuseppe. Ciao Giuseppe, ciao, buon tutto per domani, buonanotte, recrussimera. Mi prendi il Falchetto, cazzo. Buonanotte Giuseppe, dai, buon 144, ce ne risentiamo domani, ciao, ciao. Buon recrussimera, ciao, ciao. Capa Giuseppe, 144 e buona giornata per domani. Ci riscontriamo tutto domani sera, dai. Capa il positivo e buonanotte di nuovo. Falchetto, non c'è, Falchetto, riprendi. Giuseppe è andato via, Falchetto. E anch'io, ne approfitto. Due rettini a parte mia, ce la riscontriamo delle prossimine. Ciao Pena, ciao Antonio, ciao Natalino e ciao anche Giuseppe, dai, ce la riascoltiamo le prossime. Ciao, buonanotte a tutti. Ehi, ciao perché va, ne approfitto per salutare anche io, dai, che mi corico, sono stanco. Ci sentiamo domani al limite, ciao a tutti, buonanotte. Guardati anche per me, causa 144, scappa. Ok, buon 144, Falchetto. A te Natalino, ce ne risportiamo tutta domani, dai, ciao, buonanotte, cambia. Ciao, buonanotte, qualche buonanotte che sei Natalino, ce ne risentiamo tutta domani, ciao, ciao. Allora, ciao, ciao. Allora, ci vediamo.